39. Diventare amici. Margaret si rinchiuse in camera sua dopo aver lasciato in tronco la signora Thornton. Si mise a camminare avanti e indietro con quel suo modo solito che rivelava agitazione, ma poi, ricordandosi che quella casa aveva le pareti sottili e da una stanza all'altra si sentiva ogni passo, rimase seduta fino a quando non ebbe la certezza che la signora Thornton se ne fosse andata. Si sforzò di ripensare a tutto quello che si erano dette. Parola dopo parola costringeva la sua memoria ad andare fino in fondo. Alla fine si alzò e disse, malinconica: «Ad ogni modo le sue parole non mi toccano. Mi scivolano addosso perché non sono colpevole di tutto ciò di cui mi accusa. Eppure è difficile pensare che qualcuno, che una donna, possa credere con tale facilità a tutte queste cose riguardo a un'altra. È difficile e triste. Del mio vero errore non mi accusa, non ne è al corrente, lui non glielo ha mai detto, forse avrei dovuto immaginare che non l'avrebbe fatto». Sollevò leggermente il capo come se fosse orgogliosa di quella delicatezza nei sentimenti dimostrata dal signor Thornton, dopodiché, imbattendosi in un nuovo pensiero, si strinse forte le mani. «Anche lui deve aver scambiato Frederick per un innamorato!» Arrossì quando quella parola le attraversò la mente. «Ora capisco. Non si tratta semplicemente del fatto che conosce la mia menzogna. Crede anche che qualcun altro sia interessato a me. E che io... Oh cielo, oh cielo! Che cosa devo fare? Che cosa voglio? Perché mi importa di ciò che pensa lui, oltre che della semplice perdita della stima che aveva di me per aver detto o meno la verità? Non so dirlo, ma sono così triste. Oh, quest'ultimo anno è stato così infelice. È come se fossi passata di colpo dall'infanzia alla vecchiaia. Non ho vissuto la giovinezza, né la crescita. Come donna non ho più speranze, perché non mi sposerò mai. E vivo già preoccupazioni e sofferenze proprio come se fossi una vecchia, con lo stesso spirito timoroso. Sono stufa di dover essere sempre forte. Potrei farmi forza per papà, è un dovere naturale e pio farlo, e penso che potrei tollerare, e in qualche modo saprei trovare la forza per mostrare il mio risentimento, i sospetti ingiusti e insolenti da parte della signora Thornton, ma fa male capire che lui mi ha completamente fraintesa. Come mai ho questa morbosa frenesia oggi? Non lo so, so solo che non posso farci niente, devo lasciarmi andare ogni tanto. No, non lo farò invece». Disse scattando in piedi: «Non lo farò! Non voglio pensare a me, alla mia situazione, non voglio analizzare i miei sentimenti, non servirebbe a nulla adesso. Un giorno, se arriverò alla vecchiaia, potrò sedermi davanti al fuoco e, guardando dentro le braci, vedere come la mia vita sarebbe potuta essere». Nel frattempo si stava preparando in fretta per uscire, fermandosi di tanto in tanto solo per asciugarsi gli occhi, con una certa insofferenza nei gesti per quelle lacrime che sarebbero scese nonostante tutto il suo coraggio. «Suppongo siano tante le donne che commettono un errore deplorevole come il mio e che se ne rendono conto quando è troppo tardi, ma con quanta arroganza e insolenza gli ho parlato quel giorno! Ma allora non lo sapevo, mi è diventato chiaro a poco... Non so quando è cominciato, ma non cederò adesso. Mi sarà difficile comportarmi con lui allo stesso modo, con questa infelice consapevolezza dentro di me, ma sarò calma e tranquilla e parlerò allo stretto indispensabile. Ma certamente potrei non incontrarlo. In tutta evidenza ci evita. E vederlo sarebbe la cosa peggiore. Eppure non mi meraviglia che mi eviti, vista l'opinione che ha di me». Uscì, camminando a passo svelto verso i campi e cercando di soffocare i pensieri con la velocità del movimento. Quando fu sulla porta di casa al suo ritorno, arrivò il padre. «La mia brava ragazza», disse, «sei stata dalla signora Boucher. Stavo proprio pensando di andarci se avrò tempo prima di cena». «No, papà, non sono andata», disse Margaret arrossendo. «Non ci ho neanche pensato, ma ci andrò subito dopo cena, ci andrò mentre fai il tuo riposino». Quindi Margaret uscì di casa. La signora Boucher stava molto male, era davvero malata, non solo sofferente. Quella vicina, gentile e operosa che era stata lì l'altro giorno, sembrava aver preso il controllo di tutto. Alcuni bambini erano andati dai vicini. Mary Higgins era tornata all'ora di cena per i tre più piccoli e da allora Nicholas era andato a chiamare il dottore. Non era ancora tornato. La signora Boucher stava morendo e non c'era nulla da fare se non aspettare. Margaret pensò che le avrebbe fatto piacere sapere cosa pensasse Nicholas e che non c'era cosa migliore da fare che andare a trovare gli Higgins nel frattempo. Magari avrebbe potuto sapere se era riuscito a chiedere lavoro al signor Thornton. Trovò Nicholas impegnato a far roteare una monetina sulla credenza per far divertire i tre bimbetti che gli stavano aggrappati fiduciosi. Come loro stava sorridendo per un bel giro lungo e Margaret pensò che quell'aria felice e interessata in quella sua occupazione fosse un buon segno. Quando la monetina smise di girare, il piccolo Johnny si mise a piangere. Oh, vieni qui, disse Margaret tirandolo giù dalla credenza e prendendolo tra le braccia. Tenne lo sguardo fisso sul suo orecchio mentre chiedeva a Nicholas se avesse visto il signor Thornton. L'espressione del suo viso cambiò immediatamente. Già, disse, l'ho visto e l'ho ascoltato anche troppo. Vi ha detto di no, quindi? Domandò Margaret dispiaciuta. Certo, lo sapevo fin dall'inizio che andava così. Non bisogna mica aspettarsi nessuna clemenza per i manovali di sti padroni. Non siete di qui, venite da fuori e non potete sapere come si comportano, ma io lo sapevo. Mi dispiace avervelo chiesto. Era arrabbiato, non vi ha parlato come ha fatto Humper, vero? Beh, non è stato un campione di cortesia, disse Nicholas, facendo ruotare di nuovo la monetina, più per suo divertimento che per quello dei bambini. Non preoccupatevi, sono tornato al punto di partenza. Andrò in giro a cercare domani. Più di così non potevo offrirgli. Gli ho detto che io per primo non pensavo così bene di lui da tornare una seconda volta, ma voi mi avete consigliato di andare e io ero in obbligo con voi per questo. Gli avete detto che vi ho mandato io? Non so se ho fatto il vostro nome, non credo. Ho detto che una donna che non sapeva indicarmi di meglio mi aveva consigliato di andare a vedere se c'era un posticino caldo nel suo cuore. E lui? Chiese Margaret. Ha detto di dirvi di farvi gli affari vostri. Questo è il giro più lungo, ragazzi miei, e queste sono parole cortesi in confronto a quelle che ha usato con me. Ma non importa. Siamo tornati dove eravamo prima e mi metterò a spaccare pietre per strada prima di far morire di fame questi piccini. Johnny si dimenava tra le braccia di Margaret e lei lo mise di nuovo seduto sopra la credenza. Mi rincresce avervi chiesto di andare dal signor Thornton. Mi ha delusa. Ci fu un lieve rumore alle sue spalle. Sia lei che Nicholas si voltarono nello stesso momento e videro lì in piedi il signor Thornton, con in viso un'espressione di spiacevole sorpresa. Obbedendo alla sua lesta impulsività, Margaret uscì passandogli davanti senza dire una parola, ma limitandosi a un profondo inchino per nascondere l'improvviso pallore che sentiva averle ricoperto la faccia. Anche lui la ricambiò con un inchino formale, dopodiché chiuse la porta dietro di lei. Andò di corsa dalla signora Boucher. Sentì il rumore metallico della serratura e questo sembrò aumentare a dismisura il livello della sua mortificazione. Anche lui era infastidito nell'averla trovata là. C'era della tenerezza nel suo cuore, un posticino caldo, come lo chiamava il signor Higgins, ma l'orgoglio la teneva nascosta. La proteggeva rendendola inviolabile, stando attento a ogni cosa che cercasse di entrarvi. Tuttavia, il timore di mostrare la sua tenerezza equivaleva al desiderio che tutti riconoscessero il suo senso della giustizia e sentiva che era stato ingiusto ad aver ricevuto con tale disprezzo una persona che aveva aspettato 5 ore con umile pazienza per parlare con lui. Che quell'uomo gli si fosse rivolto in modo sfacciato ogni volta che ne aveva avuto occasione non significava nulla per Thornton, anzi gli piaceva per questo ed era anche consapevole della propria suscettibilità in quel momento, che probabilmente li metteva sullo stesso piano. Fu l'attesa di 5 ore a colpire il signor Thornton. Lui stesso non aveva 5 ore da perdere, ma qualche ora del suo lavoro intenso e attento, sia mentale che fisico, le aveva perse per andare in giro a raccogliere testimonianze sulla veridicità della storia di Higgins, sul suo carattere e sul suo tenore di vita. Non cercò di esserlo, fu veramente convinto che tutto quello che Higgins aveva detto era vero. E poi quella convinzione gli entrò dentro, come per un incantesimo, e toccò la tenerezza nascosta del suo cuore. La pazienza dell'uomo, la semplice generosità del movente, aveva infatti saputo della lite tra Boucher e Higgins, gli fecero dimenticare del tutto i freddi ragionamenti della giustizia e li scavalcò con intuizione dello spirito. Era andato da Higgins per comunicargli che gli avrebbe dato il lavoro e provò più fastidio per la presenza di Margaret che per le sue ultime parole. Poiché a quel punto capì che era lei la donna che aveva spinto Higgins ad andare da lui e aveva paura di pensare a lei come possibile movente di quel suo gesto, che invece faceva esclusivamente perché giusto. Quindi era questa signora la donna di cui mi hai parlato? Disse con tono indignato a Higgins. Avresti potuto dirmi chi era. Così forse avreste parlato di lei in modo più civile. Vi ci voleva una madre che vi insegnava a tenere a posto la lingua quando parlavate delle donne come l'origine di tutte le piaghe. Ah, e naturalmente l'hai detto alla signorina Hale. Certo che sì. Già, almeno penso. Le ho detto che non doveva immischiarsi di nuovo in cose che vi riguardavano. Di chi sono quei bambini tuoi? Il signor Thornton lo sapeva bene di chi erano, da quello che gli avevano detto, ma si sentì impacciato nel tentativo di deviare la conversazione da quell'inizio poco promettente. Non sono miei, e lo sono. Sono i bambini di cui mi hai parlato stamattina? Quando avete detto, replicò Higgins voltandosi con malcelata ferocia, che la mia storia poteva essere vera o anche no, ma era una storia molto poco probabile. Padrone, non mi sono dimenticato. Thornton rimase per un attimo in silenzio, poi disse: Neanche io. Ricordo quello che ho detto. Ti ho detto delle cose su questi bambini che non avevo motivo di dire, non ti ho creduto. Io non sarei riuscito a prendermi cura dei figli di un altro uomo se questo avesse agito nei miei confronti come ho sentito che ha fatto Boucher nei tuoi. Ma adesso so che hai detto la verità, ti chiedo scusa. Higgins non si voltò né rispose subito, ma quando si mise a parlare, lo fece con un tono più morbido, sebbene le sue parole fossero piuttosto aspre. Beh, non è affar vostro andare a ficcare il naso in quello che è successo tra Boucher e me. Lui è morto e mi dispiace, punto. È vero. Lavorerai con me? Questo è quello che sono venuto a chiederti. L'ostinato Higgins vacillò, recuperò le forze e rimase immobile. Non avrebbe parlato. Thornton non glielo avrebbe richiesto. Lo sguardo di Higgins cadde sui bambini. Mi avete dato dello sfacciato e del bugiardo e del piantagrane e potete forse anche aver detto un po' di verità, dato che qualche volta mi sono dato all'alcol. E io vi ho chiamato tiranno e vecchio bulldog e un padrone severo e crudele. Ecco come stanno le cose. Ma ci sono i bambini, padrone. Pensate che andremo d'accordo? Beh, disse il signor Thornton, quasi ridendo, non è stata una mia proposta quella di andare d'accordo, ma... Una cosa è confortante, come tu stesso hai dimostrato. Nessuno di noi due può pensare peggio di così dell'altro. È vero, disse Higgins pensieroso. Dopo che vi ho visto, mi sono messo a pensare a quale fortuna era se non mi prendevate, perché non ho mai visto un uomo più insopportabile. Ma è stato un giudizio troppo affrettato. Il lavoro è lavoro per quelli come me. Quindi, padrone, verrò. E per di più vi dico grazie. E questo è parecchio da parte mia, disse con maggiore franchezza, voltandosi di colpo verso il signor Thornton e guardandolo bene in faccia per la prima volta. Ed è parecchio anche da parte mia, disse il signor Thornton dando una bella stretta di mano a Higgins. Adesso bada di arrivare puntuale ai tuoi turni, continuò riprendendo il tono da padrone. Non voglio ritardatari nella mia fabbrica. Le multe che abbiamo le applichiamo con severità e la prima volta che ti becco a seminare zizzania te ne vai. Adesso sai dove sei. Mi avete detto che sono saggio stamattina. Penso che tutta questa saggezza posso portarmela con me o mi preferite senza cervello? Beh, senza cervello se devi usarlo per immischiarti nei miei affari, con il cervello se sai tenertelo per te. Me ne servirà tanto di cervello per stabilire dove finiscono i miei affari e dove cominciano i vostri. I tuoi affari non sono ancora iniziati e i miei sono ancora fermi. Allora, buon pomeriggio. Un attimo prima che il signor Thornton arrivasse alla porta della casa della signora Boucher, Margaret uscì. Lei non lo vide e lui la seguì per un bel tratto, ammirando la sua andatura leggera e disinvolta e la sua figura alta e aggraziata, ma improvvisamente quella sensazione di gradevole piacere venne offuscata, avvelenata dalla gelosia. Desiderava raggiungerla e parlarle per vedere come lo avrebbe accolto, adesso che doveva sapere che lui era a conoscenza di qualche altro legame. Inoltre desiderava, ma di questo desiderio provava una certa vergogna, che lei sapesse che aveva dato ragione al suo buon senso di mandare Higgins da lui a cercare lavoro e che si era pentito della decisione di quella mattina. La raggiunse. Lei sobbalzò. Permettetemi di dire, signorina Hale, che siete stata alquanto precipitosa nel manifestare il vostro disappunto. Ho assunto Higgins. Ne sono lieta, disse con freddezza. Dice che vi ha ripetuto quello che ho detto stamattina sulle. Il signor Thornton esitò. Margaret continuò. Sulle donne che non si devono immischiare. Avevate tutto il diritto di esprimere la vostra opinione, signore, che era più che giusta, non ne dubito, ma. Proseguì con un tono leggermente più acceso. Higgins non vi ha proprio detto l'esatta verità. La parola verità le ricordò la sua menzogna e si fermò immediatamente, sentendosi terribilmente a disagio. Inizialmente Thornton non riuscì a dare una spiegazione al suo silenzio, poi si ricordò della bugia che aveva detto e di tutto quello che era successo. L'esatta verità, esclamò, pochissime persone dicono l'esatta verità. Ho smesso di aspettarmela. Signorina Hale, non avete da darmi nessuna spiegazione? Vi rendete conto di quello che non posso non pensare? Margaret restava in silenzio, si chiedeva se una spiegazione di qualche tipo sarebbe stata compatibile con la sua lealtà nei confronti di Frederick. No, disse lui, non farò altre domande. Potrei farvi cadere in tentazione. Al momento, credetemi, il vostro segreto è al sicuro con me. Ma avete corso rischi enormi, permettetemi di dire, con la vostra imprudenza. Sto parlando soltanto come un amico di vostro padre. Se ho avuto pensieri o speranze di qualche altra natura, adesso ovviamente non esistono più, non nutro più alcun interesse personale. Ne sono consapevole, disse Margaret, sforzandosi di parlare in modo indifferente e disinteressato. Sono consapevole di come posso sembrarvi, ma il segreto è di un'altra persona. E non posso svelarlo senza fargli del male. Non ho il minimo desiderio di impicciarmi dei segreti di quel signore, disse con rabbia crescente. Il mio interesse per voi è unicamente quello di un amico. Potete non credermi, signorina Hale, ma è così. A dispetto di quella persecuzione con cui temo di avervi minacciato una volta, ma è tutto finito, tutto morto e sepolto, mi credete, signorina Hale? Sì, rispose Margaret con voce desolata. Allora, davvero non vedo alcuna ragione per continuare a camminare insieme. Pensavo che poteste avere forse qualcosa da dire, ma vedo che proviamo un disinteresse reciproco. Se siete assolutamente convinta che ogni stupido sentimento da parte mia sia scomparso del tutto, vi auguro buon pomeriggio. Se ne andò camminando molto velocemente. Che cosa intende dire? Pensò Margaret. Cosa poteva voler dire con quelle parole? Come se fossi sempre lì a pensare che sia interessato a me, quando so bene che non è vero, non può esserlo. Sua madre gli avrà detto tutte quelle cattiverie su di me, perché dovrebbe importarmi di lui? Di certo sono abbastanza padrona di me stessa da controllare questo sentimento infelice, tempestoso e sconosciuto che mi ha quasi persino spinta a tradire il mio caro Frederick. Per poter riavere indietro la stima di un uomo che si prodiga tanto per dirmi che per lui non conto nulla. Ah, forza! Povero piccolo cuore! Rallegrati, fatti coraggio, noi saremo di conforto l'una all'altra se ci abbandoneranno e rimarremo soli. Suo padre fu alquanto sorpreso della sua vitalità quel pomeriggio. Non smetteva di parlare e si sforzava di usare un umorismo che non le apparteneva. E se c'era un pizzico di amarezza in quello che diceva, se i suoi racconti sulla vecchia crica di Harley Street erano un po' sarcastici, suo padre non se la sentiva di approfondire come avrebbe fatto in un altro momento, perché era lieto di vedere che si liberava dalle sue preoccupazioni. A metà serata venne chiamata di sotto per parlare con Mary Higgins e quando ritornò, il signor Hale credette di vedere i segni delle lacrime sulle sue guance. Ma non poteva essere così dal momento che portò buone notizie. Higgins aveva ottenuto un lavoro nella fabbrica del signor Thornton. In ogni caso, il suo entusiasmo si era smorzato e le era proprio impossibile continuare a parlare, visto il suo stato d'animo. Per alcuni giorni il suo umore fu stranamente altalenante e suo padre stava iniziando a preoccuparsi per lei quando giunsero da uno o due fronti delle notizie che le assicurarono qualcosa di nuovo e di diverso. Il signor Hale ricevette una lettera da parte del signor Bell, nella quale quel signore si offriva di andare a trovarli, e il signor Hale si immaginò che la preannunciata compagnia del vecchio amico di Oxford avrebbe dato una svolta positiva ai pensieri di Margaret, come aveva fatto con i suoi. Margaret cercò di provare interesse per quello che faceva piacere a suo padre, ma era troppo apatica per preoccuparsi di qualsiasi signor Bell, sebbene fosse il suo padrino da 20 anni. La ridestò molto di più una lettera di Edith, piena di parole di sentita partecipazione per la morte della zia, piena di dettagli riguardanti se stessa, il marito, il figlio, e in cui alla fine diceva che, dato che il clima non era adatto al bambino e che la signora Shaw stava meditando di tornare in Inghilterra, riteneva probabile che il capitano Lennox vendesse tutto e che andassero tutti a vivere di nuovo nella vecchia casa di Harley Street, che comunque sarebbe parsa incompleta senza Margaret. La giovane si struggeva al pensiero della vecchia casa e della pacifica serenità di quella vecchia vita monotona e ben ordinata. Finché l'aveva vissuta, l'aveva talvolta trovata noiosa, ma da allora era stata sbattuta di qua e di là e si sentiva così esausta per quel recente conflitto con se stessa, da pensare che persino un'esistenza immobile l'avrebbe distesa e rinvigorita. Così iniziò a pensare a una lunga visita ai Lennox, al loro ritorno in Inghilterra, come a un periodo, no, non di speranza, ma di svago, durante il quale avrebbe potuto recuperare il potere e il controllo di sé. Al momento le pareva che tutti gli argomenti conducessero al signor Thornton, come se, malgrado tutti i suoi sforzi, non riuscisse a dimenticarlo. Se si recava dagli Higgins, ne sentiva parlare persino lì, suo padre aveva riesumato le loro letture e citava continuamente le sue opinioni, persino la visita del signor Bell portava in tavola il nome del suo affittuario. Infatti scrisse che sarebbe stato impegnato per gran parte del tempo con il signor Thornton, poiché stavano preparando un nuovo contratto di affitto e dovevano accordarsi sui termini. 40. Disaccordi. Margaret non si aspettava che la visita del signor Bell le avrebbe procurato tanto piacere. L'aveva attesa con ansia per riguardo di suo padre, ma quando il suo padrino arrivò, lei si comportò da subito nel modo più naturale e amichevole del mondo. Lui diceva che non era certo merito suo se la ragazza era così, una giovane che rispondeva proprio ai suoi canoni. Era un potere ereditario il suo, quello di entrare in una stanza e di catturarne l'attenzione, mentre lei, in risposta, gli riconosceva il merito di essere così fresco e giovane sotto la toga e il cappello da professore universitario. Fresco e giovane nella cordialità e nella gentilezza, intendo. Temo di dover ammettere che le vostre opinioni sembrano le più vecchie e superate che abbia mai sentito in tutto questo tempo. Ma sentite vostra figlia, Hale. Il suo soggiorno a Milton l'ha alquanto traviata. È una democratica, una sovversiva, un membro della società della pace, una socialista. Papà, è perché difendo il progresso del commercio. Il signor Bell vorrebbe che ancora barattassimo pelli di animali selvatici con ghiande. No, no, zapperei ben volentieri la terra e coltiverei patate e toserei le bestie allo stato brado e confezionerei ottimi panni con la lana. Non esagerate, signorina mia, ma sono stanco di questo trambusto, tutti che si avventano l'uno sull'altro nella loro corsa alla ricchezza. Beh, non tutti hanno la possibilità di starsene comodamente seduti in qualche aula universitaria, lasciando che le proprie ricchezze crescano senza alcuno sforzo personale. Sono certo che ci sono molti uomini qui che sarebbero contenti se il loro patrimonio aumentasse come ha fatto il vostro, senza preoccuparsene affatto, disse il signor Hale. Non credo che lo sarebbero. Amano il trambusto e la lotta, quanto a stare seduto tranquillo imparando dal passato o a plasmare il futuro attraverso un assiduo lavoro nutrito di spirito profetico, beh, puah, non credo che ci sia uomo a Milton che sappia stare seduto tranquillo. È una grande arte. Ho il sospetto che la gente di Milton pensi che gli uomini di Oxford non sappiano muoversi. Sarebbe davvero un'ottima cosa se si mescolassero un pochino di più. Beh, forse potrebbe essere un bene per gli abitanti di Milton. Molte cose che magari vanno a genio a loro potrebbero risultare sgradite ad altri. Non siete anche voi uno di Milton? Chiese Margaret. Pensavo che foste orgoglioso della vostra città. Confesso che non vedo cosa ci sia da esserne orgogliosi. Se venissi a Oxford, Margaret, ti mostrerei un posto di cui essere orgogliosa. Bene, disse Hale, il signor Thornton verrà a prendere un tè da noi stasera e lui sì che è orgoglioso di Milton, come voi di Oxford. Voi due dovreste cercare di influenzarvi a vicenda per avere una mentalità più liberale. Non voglio essere più liberale, vi ringrazio, disse Bell. Il signor Thornton verrà a prendere il tè, papà? Chiese Margaret a bassa voce. O per il tè o dopo, non sapeva. Ha detto di non aspettarlo.